fa male. Già, ma avevo giù niente. Ok, oggi ho deciso che l'arte è una scontata. È solo il passatempo di gente annoiata. Da dove vengo io, nessuno è speciale. Che tu sia artista, criminale o transessuale. Puoi di sentirsi diversi, si inventano di tutto. Io faccio tutto per me stesso, non intrattengo nessuno. E anche se domani magari mi odieranno tutti. E voi non siete speciali, siete solo più testardi. JJJ, l'MC geniale. Oppure un idiota, sui geni di mio padre. Già, dico 21 anni, mi permetto di insultarvi. E forse a 22 comincerò a spararvi. E forse come sempre è colpa delle situazioni. Oppure di me stesso che mi rompo i coglioni. Perché in vera è un buco di città dove un nero se la può ancora tirare da stare. Siamo Giovanni, un miliardo di persone. Non sono indispensabili, manco per il mio amore. Anche una società del cazzo, il cuore te lo straccia. Ti dice, non ci serve! E poi ti rivi in faccia. Ci ho già fatto i punti e non sono più morti. Quelli che ridono troppo sono già tutti morti. Tutto ciò che vive striscia, striscia. Mangia la prima mela, ti trasformi in una biscia. Io credo in Dio e non in me stesso. E in questo mondo è del tutto fuori posto. Ma resisto a ogni costo, perché penso non ha senso affidarmi a me stesso. Quando so che sparisco con il resto, una questione di punti di vista. Puoi vedere solo il cielo, sei incastrato in una mischia. Solo il cemento si è calpestato dalla folla. Solo la tua mano se la paranoia non ti molla. La vita non è una puttana, però lo sono io. Giro di notte e metto in vinile il mio testo più intimo. Sul mio beat più fragile canto lo stesso ritornello su una melodia stabile. Siamo Giovanni, un miliardo di persone. Non sono indispensabili, manco per il mio amore. Anche una società del cazzo, il cuore te lo straccia. Ti dice, non ci serve! E poi ti ridi in faccia. Siamo Giovanni, un miliardo di persone. Non sono indispensabili, manco per il mio amore. Anche una società del cazzo, il cuore te lo straccia. Ti dice, non ci serve! E poi ti ridi in faccia.